mi pare chiaro che questo non è ancora il nostro mitico elettrodo, che era appunto in replica. Alle 17.02 invece, così torna la mia voce con sonorità sicuramente diverse, ma insomma oggi abbiamo una trasmissione che poi troverà la new entry mitica, tutte le settimane l'avete sentito. Cosa succede in città? A seguire Tabula Rasa, quello diventa un po' il palinsesto ogni 15 giorni. E se abbiamo sentito il reggae Mapudungun, possiamo sentire anche il rap in Mapudungun, possiamo sentire anche il reggae, che sicuramente molti lo sapete non è il mio genere proprio massimo. Però insomma, diciamo che diamo spazio, perché oggi andremo proprio ad ascoltare la prima mezz'ora di una lunga chiacchierata durata quasi un'ora e mezza sicuramente, che abbiamo fatto con tre compagne mapuche appartenenti alla coordinadora Aracomanieco. Era infatti l'11 novembre, se non sbaglio. Abbiamo incontrato queste tre compagne che proprio girano l'Europa per portare così la voce di quella che è la lotta e la resistenza, non solo del popolo mapuche nel momento in cui torna a occupare il proprio territorio, ma ancora di più dell'emergenza ancora più forte che è quella, oltre a liberare proprio il territorio e rifondare il proprio popolo nazione mapuche, anche e soprattutto quella per i prigionieri politici mapuche. Usiamo questa volta il maschile perché neutro non è, perché sono una grande maggioranza, c'è solo una prigioniera politica mapuche in questo momento agli arresti e la conosciamo ed è Claudia Nahuelan. Quello che vogliamo proporvi oggi è la prima mezz'ora di una chiacchiera fatta in maniera assemblare, che io ho un po' pulito cercando di rendere un po' più ascoltabile per radio, che ho diviso in tre perché appunto è stata una lunga chiacchierata. All'inizio loro ci hanno raccontato che cosa vuol dire vivere nel territorio, che cosa vuol dire relazionarsi come esseri della terra, mapuche, persone, esseri umani della terra. Che cosa vuol dire tornare a occupare il proprio territorio e che cosa vuol dire sentirsi persone in relazione al proprio territorio, perché pensiamo che sia molto importante fare chiarezza su quella che è la relazione tra corpo e territorio per le persone mapuche che stanno tornando a rioccupare e a rifondare il popolo nazione mapuche. L'abbiamo detto tante volte, ci sono molte differenze, in particolare nella parte argentina, perché in quelle che sono state, diciamo, nelle comunità rimaste dopo le grandi campagne di cui abbiamo parlato spesso, la conquista del deserto in Argentina e la pacificazione dell'Araucanía, che insomma, se devi fare la pace con qualcuno vuol dire che lì qualcuno ci sta con cui hai litigato, no? E quindi la pacificazione è stata quasi un genocidio, così come nel deserto della Patagonia argentina, deserto non era, ma viveva esattamente il popolo mapuche. Chi rifonda e chi da 15-20 anni sta tornando dopo essersi trovato ai margini di una società bianca, capitalista e neocoloniale, ai margini e costretto ai margini, razzializzato, trattato con stigma, ha deciso di dire: tornerò nella mia vita, così da poter finalmente rifondare il mio popolo nazione. El calafén, Milla Pengui siempre viene con Nehuen, buscando la historia no contada en las raíces del Pehuen, haciendo Nutram con Pupeñi y Pulambien, aumentando mis energías como un gallo que curando mis raíces. Allora, insomma, diciamo che vi facciamo ascoltare la prima mezz'ora, che io credo che sia comunque molto chiara. C'è anche la una traduzione che, insomma, l'incontro si è svolto grazie al compagno di Non Una di Meno Padova, grazie anche alla nostra mitica compagna Maria Laura, che è riuscita con santa pazienza a organizzare questa iniziativa in un ambulatorio occupato dalle compagne di Non Una di Meno Padova, ed era un incontro misto, ma sicuramente appunto molto molto partecipato, in cui però all'inizio dicevano che la traduzione non serviva. Noi abbiamo voluto comunque fare una traduzione che, come sentirete, per chi capisce, è sicuramente un po' più leggera, perché abbiamo pensato di farla comunque, ma insomma quasi tutti capivano là, vero è che lo spagnolo, cioè il castigliano parlato dalla le compagne è molto chiaro, molto chiara è anche la loro determinazione, del resto non è neanche la loro lingua. Quindi noi vi proponiamo questa prima mezz'ora, torneremo poi ad aggiungere altre notizie, perché non è mai abbastanza, e a commentarle, e ci daremo poi l'appuntamento per la prossima trasmissione. Bueno, en este caso yo vengo a compartir lo que también es lo, la gente de allá y los Lamien, Ulamien, como hermanos en Mapudungun, quieren transmitir que es también parte de la injusticia que se vive a nivel estructural y judicial, y opresión a nivel de Estado y persecución política también. È molto importante che per me venire in posti come questo, perché è importante, è una decisione collettiva, è un desiderio collettivo che porta quello di voler informare e far sapere quella che è la condizione dei prigionieri politici mapuche, e che significa vivere in un territorio appunto sotto quello che è un sistema estrattivista che li devasta. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, soy Mary, hermana de un preso político mapuche, también de la coordinadora Arauco Mayeco, caso Quilleco, y principalmente queremos denunciar al Estado chileno, en este caso hoy día a través del gobierno de Gabriel Boric, la persecución, encarcelamiento y ocupación del territorio, poder denunciar y que se visibilice lo que está pasando hoy día, y contarles que también dentro del sistema represivo que está usando él hoy, con un discurso que ha vendido sobre todo en Europa de ser una persona de izquierdas, ha triplicado el encarcelamiento de los Lamien. Hoy día hay más de 100 presos políticos mapuches en el territorio del Gulumapu, no del Puelmapu, del Gulumapu, que es la parte de la administración chilena, y contar como familiares cómo se vive la prisión política. Allora, lei è Mary, anche lei è Workem, quindi portavoce del caso. No, come si chiama? No, familiare, scusa, familiare del caso Quilleco, che appunto prigioniero, e le piacerebbe anche raccontare a noi che significa quella che è la repressione di un governo cileno, anche in questo momento, sotto un presidente Gabriel Boric che si è venduto in Europa come un presidente progressista di sinistra, e quella che significa invece l'occupazione e appunto la detenzione di tantissimi Lamien, che sono appunto fratelli dei compagni mapuche, anche in questo periodo, con un presidente che in Europa è venuto anche criticando quella che è questo tipo di detenzione, per esempio, delle comunità mapuche, e poi invece nella realtà, nel territorio, è comunque, poi ce lo racconterà, sta succedendo, c'è una situazione molto molto pesante. Dice anche, appunto, ricordandoci che ci sono più di 100 prigionieri politici mapuche adesso nel Gulumapu, che è la parte cilena. E che quindi questo numero di prigionieri è triplicato rispetto, sì, a quello di prima. Rispetto a quello di prima è diventato il triplo. Maria Maria Confuché, Inche Claudia Nahuel Pampillén, muchas gracias por venir a escucharnos. nosotros somos de territorio muy lejano, pero que tiene una particularidad en este momento de mucha dignidad y mucha resistencia en una lucha que ha sido constante desde hace mucho tiempo, ¿sí? Desde el periodo de la colonización hasta el día de hoy. Es importante que ustedes sepan cómo se vive cotidianamente una realidad muy brutal que sucede allá en el Huelmapu, y que me imagino, motivados por esa conciencia que me imagino que debe tener cada uno, de saber, de escuchar y de también proyectar este conocimiento y esta denuncia que hacemos nosotros hoy, para que puedan en un futuro quizá también comentarlo con su gente, porque es importante para nosotros visibilizar este horror que nosotros vivimos allá, producto de la represión que el Estado chileno nos brinda en el cotidiano a nosotros por estar resistiendo, por creer en nuestro pueblo, por creer en nuestra fuerza, por creer en nuestra naturaleza, y principalmente por nuestra idea de recuperar nuestro territorio que ha sido usurpado desde la colonización en adelante. Percata, è molto importante intanto stare qui e vuole mettere il fuoco sul fatto che quello che è successo dalla colonizzazione ad oggi sono popoli che stanno portando avanti una resistenza con tantissima forza, tantissima dignità. In questa resistenza, proprio dalla colonizzazione a oggi, quindi probabilmente non è mai finita questa colonizzazione, e quello che trovo molto importante è che qua si conosca, si sappia, si senta narrare questa violenza, e soprattutto che le persone che sono qui con la coscienza, che le immagini che abbiamo, siano capaci poi di replicare quella che è la storia di questi popoli. Che... E che cosa vuol dire stare in un popolo in resistenza, sì, quotidianamente, e che cosa vuol dire anche credere proprio nella propria forza, nella propria dignità e relazione anche con la natura? Sì, e poi appunto questa repressione molto legata a chi vuole rifondare la propria cultura, mantenere, e questo significa farlo anche proprio sul territorio. Che va a essere un castellano. Forse per iniziare un po', per accompagnarci e focalizzarci sulla storia di resistenza e di recupero del territorio Huelmapu, chissà possiamo iniziare una curiosità che ci viene proprio capire cosa significa vivere in lotta quotidianamente, e sì, tanto questo, cosa significa vivere in un territorio in lotta. Primero, el encarcelamiento es una de las grandes consecuencias de esta misma represión por las recuperaciones territoriales que se hacen allá. Eso como consecuencia, pero lo que significa es represión constante, son allanamientos a los territorios donde viven comunidades con niños, personas mayores, familias, múltiples familias en comunidades en el campo. Y aquí yo quiero que piensen, puede ser difícil, pero quizás que cierren los ojos y piensen en el campo, en lugares abiertos del campesinado, y súmenle a eso la represión policial que hay en las marchas o en las manifestaciones. Eso. Allora, per darvi un'idea di questo, intanto le carcerazioni, cioè gli arresti, le prigionieri politici mapuche sono la prima diretta conseguenza di quello che significa vivere in un territorio di resistenza, in un territorio dove abitano famiglie, molte famiglie fatte da bambini, genitori e persone anziane. E voi dovete immaginare, chiudere gli occhi e pensare alla campagna, a una valle, a un posto dove si vive così, ci sono le case a distanza con le famiglie, e insieme a questo però la repressione che si vede durante le manifestazioni. Su questo silenzio che noi ci immaginiamo della campagna arriva i celerini, per esempio, in quel momento arriva tutto quello che noi ci possiamo immaginare, che è la carica di una manifestazione. Perché vivono in continuazione con questi allineamenti, con queste rettate, che però attraversano i corpi dei bambini, degli anziani, di tutte le persone che vivono al territorio. Eso vivido, sì, 4 volte al mes, moltiplicato per, non so, per 12 mesi, già non so quanto è, più di 40 volte, a volte hasta en el año, de represión y allanamiento, de apresamiento y posterior persecución, no solamente de los que ahora están como presos políticos mapuche, que son los Weichafe, y luego voy a explicar eso, sino también de quienes son representantes o huerquén o voceros de las comunidades, de persecución a los niños en los colegios, de los hijos de los presos políticos mapuche, de persecución por teléfono, de la policía, de militares. Quindi di questa repressione, appunto, nella quotidianità, significa che questo accade per esempio 4 volte in un mese per 12 mesi l'anno, e questo significa che nella tua vita ti succede più di 40 volte l'anno, quindi di subire un'aggressione di questo tipo. Entrano nella comunità, arrestano le persone che appunto poi spesso diventano i prigionieri politici, anche in questi casi succede, e quello che succede poi è anche una persecuzione comunque continua fatta nella scuola del figlio del prigioniero politico, piuttosto che continuamente al telefono i controlli, la polizia, in tutte altre forme meno dirette di repressione, nonché comunque poi appunto l'allanamento sarebbe come le perquisizioni nelle case. Igual también agregar que como es un conflicto histórico y que hoy día se da principalmente con el capital forestal, es importante decirlo, porque no solo el Estado, a través de sus poderes tanto legislativos como militares, con toda la herramienta estatal, hace la opresión, o sea, la policía es quien custodia al capital forestal. Entonces, no, la represión por un lado está, como decía la Lamien, en el cotidiano desde la militarización, pero también desde las empresas forestales. Sí, allora diciamo que il nemico principale, l'invasore principale che hanno nel territorio è quello delle forestali. Lì le forestali, noi abbiamo forestali, sono quelli che si prendono cura, tra virgolette, dell'ambiente. Lì le forestali sono le imprese forestali, quindi diciamo sono le industrie forestali, che sono il grandissimo problema. E accanto alle industrie forestali c'è un potere statale asservito a questo, insomma, alle industrie, che quindi agisce da un lato economico e dall'altro militare, e quindi trovi la polizia, per esempio, e i militari sono a difesa delle proprietà delle forestali, e quindi funzionano quasi da braccio armato dei grandi impresari delle forestali. La lucha por la recuperación territorial se da principalmente también por recuperar los territorios que hoy tienen las forestales, porque es las que se hacen a través, sobre todo, de la, bueno, no voy a explicar los ahorros y todo eso, sino que a través de del control territorial, y es desde ahí donde entran la policía a hacer los custodios de las forestales. Y bueno, y eso, no sé, Claudio. Sí, cioè che quando si entra, si fa un recupero territoriale, si entra in un territorio suppostamente dove c'è la forestale, ed è lì dove tu poi ti trovi la polizia davanti. E deve loro esercitare il controllo territoriale. Sì. Questo si tratta del controllo territoriale, recuperare i territori occupati dalle forestali. Sì. Agregar igual el tema de Gualmapu es nuestro sector que está en guerra con, no sé si guerra, en el Estado chileno tiene un conflicto con nosotros desde muchos años, y hoy en día han militarizado todas las zonas que están en ese despertar de recuperar lo que se perdió, que se robó, que se usurpó. Y los militares que están hoy 24/7 en las carreteras, en los sectores donde están las comunidades en resistencia, utilizan un aparataje bastante contundente, con mucha tecnología. Hay visualmente es muy agresivo transitar por esos caminos, porque están los militares con sus metralletas, con sus drones. Las casas de la gente campesina que está en resistencia, que es gente muy humilde, por lo tanto el acecho es muy intimidante. Es como si ustedes estuvieran en su casa, qué sé yo, y los drones y el racismo, cuando tú pasas, indio, bla, bla, bla, atemorizando toda la población que transita. Entonces, claro, hablo unas cosas. Il conflitto che viene avanti, che la guerra che gli ha dichiarato lo Stato del Cile ha una storia molto lunga, che adesso è focalizzata particolarmente su chi esercita il recupero territoriale, perché il recupero territoriale sottrae ai nostri nemici, diciamo, al capitale, parlandoci chiaro, no? Questo accade, quindi la repressione, la militarizzazione adesso è concentrata nelle zone dove si fa il recupero territoriale, no? E questo significa però che l'attacco è così potente, diciamo, no? Che hanno una tecnologia altissima, a dei livelli altissimi, per cui comunque quando non c'è un'incursione vera e propria con i mezzi e le persone, ci sta un continuo avere i droni, un continuo controllo. Tu comunque esci dalla tua famosa casa in campagna che avevi visto con gli occhi chiusi, ci sta quello col fucilone che ti insulta perché sono razzisti, razzismo continuamente, le signore che si vedono la mattina scendere il drone nel campo, e questo è la quotidianità. E quindi molto focalizzata sul recupero territoriale, esattamente perché si recupera la terra, ci si riprende ciò che era ancestralmente. Posso aggiungere, lo diciamo di solito noi, che gran parte di questo armamento, di questa tecnologia anche di droni, vengono proprio da Israele. Infatti, lo Stato cileno compra a loro tutto quello. Ma se li andate a vedere sono gli stessi. Sì, quindi sono milioni e milioni che loro spendono. Anche nelle piazze. Sì, anche nelle piazze cilene, tutto l'armamento, drone, la meditazione che parlano loro, che io ho visto, sono anche i carri armati, si chiamano carri armati, non lo so. E sono tutti che provengono da Israele, no? C'è anche questo. E questa commercializzazione che il Cile ha con Israele. Instruye a los militares, los israelitas, sí, a los militares chilenos para que vayan allá. L'intuizione anche della polizia viene anche da addestrati dai militari israeliani. È importante también geograficamente il Huelmapu está ocupado por dos administraciones, la administración chilena y la administración argentina. Por la parte argentina el Huelmapu, por la parte chilena el Gulumapu. Geográficamente, pues, como en hectáreas, no sé, pero claro, es un territorio muy grande que se ha reducido al 5% de lo que era. Esa es la ocupación de ambos estados. Il territorio Mapuche è un territorio enorme, tutto si chiama Huelmapu e poi si divide in Huelmapu che è la parte argentina e in Gulumapu che è la parte occupata dallo Stato cileno. E di questo territorio così grande adesso ne è rimasto il 5%. Chissà, una cosa interessante da questo punto di vista può essere, no, un po' parlando del territorio cileno, no, e quello che soprattutto è successo negli ultimi anni, penso al 2019, all'estadillo, con questo despertar, con questo risveglio, no, che ha attraversato questa parte di mondo e che sicuramente dall'esterno è stato visto come una grande speranza. E soprattutto in concomitanza di questi eventi, chi è oggi l'attuale presidente, Gabriel Boric, ha sicuramente portato avanti una campagna elettorale con di fatto nel suo discorso di insediamento e ha promesso, no, la demilitarizzazione del territorio Mapuche e soprattutto la libertà per tutti i detenuti e le detenute. E lo avete già detto, queste cose non sono successe, ma sarebbe interessante capire, no, un prima e un dopo questo nuovo insediamento governativo e soprattutto anche come una curiosità molto grande come si lotta e come si resiste da detenuti e detenute mapuche contro uno stesso Stato, il proprio stesso Stato. Voy a contextualizar algo que también estaba hablando ella hace un rato, que es cuando le hablamos de Chile y Argentina, ya ustedes se ubican. Cuando hablamos de Chile y Argentina, avete presente, ¿no? Sí, sí, ya. Chile y Argentina sería Walmapu, parte de ello, como la mitad. La mitad de Chile y Argentina sería el Walmapu, o sea, todo el territorio. Mapuche. Sí. Territorio Mapuche. Mapuche, cierto. Hay diferencias territoriales geográficas entre Gulumapu, que es Chile, y Puelmapu, que es Argentina. Ci sono delle differenze importanti che sono appunto tra Gulumapu, che Chile. È Chile, e Puelmapu, che è Argentina. Entonces las formas de lucha también van variando en torno a la geografía del lugar. Pero la lucha es una, que es la autodeterminación y la liberación del pueblo nación mapuche. E quindi ci possono essere delle differenze, ma la lotta è unica ed è quella per la liberazione e la rifondazione del popolo nazione mapuche. Hay 500 años, 5 siglos de historia de lucha con campañas desde la campaña del desierto hasta la pacificación de la Araucanía que han intentado aplacar y opacar la lucha del pueblo nación mapuche hasta hoy en día reducirnos al porcentaje de territorio que decía de 5%, que antes eran 10.520.000 hectáreas, ahora son el 5% de eso. Per arrivare a allora abbiamo parlato del 5% perché durante la storia ci sono state delle campagne, parliamo di campagne militari che sono state per esempio la campagna del deserto, così non a caso in Argentina chiamata la campagna del deserto, e per esempio la pacificazione dell'Araucanía, che sono state queste operazioni militari che sono state quelle che poi sono stati quasi dei genocidi, comunque hanno devastato e hanno ridotto così tanto un territorio che era da 10 milioni di ettari, il 5% di questi 10 milioni e svariati altri mila ettari. Entonces es frente a ese territorio, o sea, perdón, frente a esa realidad a la que nos tenemos que según el Estado chileno, acomodar y vivir, como si nada hubiese pasado, como si esos 5 siglos de lucha no hubiesen existido. ¿Por qué luchar por la autodeterminación? Y es necesario también este contexto. Allora, quello che vorrebbero invece è che questi 500 anni di lotta venissero completamente dimenticati, questi 500 anni di resistenza venissero completamente dimenticati e si vorrebbe che loro si accomodassero, stessero tranquilli, e quindi perché è importante invece l'autodeterminazione e l'autonomia? Perché qui non si lucha solamente per il territorio e qui non voglio fare la similitud di cuerpo-territorio. Porque no es lo mismo una lucha individual en la que uno puede decidir qué hacer con su cuerpo a la lucha por la autodeterminación de un pueblo, de una nación, que no es una persona, que son más, que tienen una cultura, que tienen una cosmovisión, una forma de ver el mundo y una forma de ser con el territorio. Non farò l'algoritmo corpo-territorio, perché una questione è una scelta individuale di una lotta di un individuo e un'altra cosa è la rifondazione di un popolo, della sua cultura, della sua cosmovisione e di un progetto di un intero popolo con la sua cultura, la sua cosmovisione, la sua lingua. Y es por eso que también cuando partimos intentamos hablar el mapudungún, que es parte de nuestra cultura, que para nosotros también es importante. No solamente la lengua como un elemento de cultura, sino que la cosmovisión. El territorio no es algo productivo solamente, no es algo material, es algo que tiene que ver con la espiritualidad. Porque el territorio, en el territorio no solamente habitamos nosotros como seres humanos, habitan animales y habitan espíritus, que son los ñen, quienes son parte también de este lugar. Y es por eso que también nosotros respetamos la tierra, porque vivimos en ella, vivimos de ella, y no nos podemos determinar como pueblo, como nación, como cultura, sin un territorio. Aquí nadie vive en el aire. E quindi per noi la lingua del Mapudungun è importantissima, perché proprio fare la presentazione in Mapudungun oggi è stato importante, perché è proprio portare, perché la nostra lingua proprio è piena della nostra visione, proprio è un mezzo di trasmissione della nostra visione. Per loro il territorio non è soltanto qualcosa di produttivo, qualcosa di cui sì, certo vivono, ma non è solo una cosa materiale, anche dove abitano altri animali, altri spiriti, e quindi loro appunto rispettano la terra da questa visione molto, molto profonda, dove l'uomo, la persona non è al centro, non esiste soltanto la persona, ma tutto il mondo. La nostra non è una politica occidentale, non è una politica che carece di esa spiritualità partidista, in cui quizás hay que decidir qué hacer según el vaivén de la institucionalidad o la contingencia actual, sino que la política mapuche es distinta, porque la política mapuche se hace en el territorio, la política mapuche se hace viviendo en él, se hace recuperando territorio para vivir en el territorio, para producir alimento también, pero también para dejarlo ser. Y esa es una de las grandes diferencias, en que además hay una espiritualidad de por medio, que es el centro de la lucha mapuche. Es una diferencia entre la política mapuche a la política winca o la política occidental, que carece de espíritu. Cioè, loro non praticano la politica occidentale, la nostra politica, loro non hanno una politica che è fatta in relazione al governo che tu hai fuori, alle emergenze che tu hai fuori, dove non è fatta di spiritualità, ma è fatta di quello, no? Di assemblee, di consensi, a seconda di quello che loro è tutto relazionato. La politica mapuche è relazionata al recupero di un territorio da cui tu sicuramente dovrai trarre gli alimenti, ma a cui dovrai anche dare delle cose. E quindi non è basata su è assolutamente basata sulla cultura anche, no? Quindi è legata al recupero del territorio, ma alla vita, alla vita nel territorio. Del territorio. La pratica è la vita nel territorio. Entonces, es eso lo que se defiende. Es frente al extractivismo que nos quiere quitar esa forma de vida, es cómo se determina la lucha. Es lo que defienden las comunidades y en este caso los que actualmente son presos políticos mapuches, que son huaychafe. Un huaychafe es un guerrero, no es un ecologista, no es un activista o un escritor, que hay muchos y pueden haberlo y pueden hablar de diferentes conflictos territoriales. Un huaychafe es alguien que está en el territorio, que lo defiende, que vive en él, que sabe la importancia del territorio. Un huaychafe es alguien que además, y como todos los pueblos colonizados, tenemos que luchar contra el extractivismo, el colonialismo y lo que nos dejó el imperialismo. Un huaychafe, repito, No es alguien que simplemente habla como activista, es un militante del territorio. Y son los que actualmente o están muertos o están en clandestinidad o están presos. No hay otra opción. No es un novelista que está escribiendo y... L'estrattivismo ci vuole togliere tutto questo, cerca di toglierci tutta questa nostra ricchezza e diciamo appunto, prima parlava dell'attacco che viene fatto anche alle diverse viene da dire autorità, comunque diversi ruoli della comunità, delle comunità mapuche. Per esempio c'è il Wechafe sarebbe il guerriero, e il Wechafe mapuche non è un ecologista che va in giro o a predicare il green o un certo tipo di alimentazione, oppure che fa delle lotte mirate su un solo argomento. Un Wechafe è uno che sta sul territorio, lo difende, lo ricorre, perché la difesa del territorio, insomma, comunque poi sono territori abbastanza grandi, e quindi ci vive sopra e ne conosce l'importanza nella sua totalità, non nell'avere il terreno dove coltivo, ma nella sua universale, il senso universale di quel territorio, non solo la sua presenza. Sì, anche diceva, quindi appunto, visto che questi Wechafe non sono scrittori, non sono artisti, ma non vanno a fare non vanno a fare incontri, a chiacchierare, e quindi quasi tutti sono o carcerati o clandestini o morti, o coltivo di chi sono stati uccisi per lottare in difesa del territorio, e ce ne sono anche. Eccoci qua, direi che una mezz'ora piuttosto intensa quella che abbiamo ascoltato. A parlare si alternavano le tre compagne che, come vi dicevo, vengono comunque da tre realtà diverse: una studentessa universitaria che si trova appunto in questo gruppo di studenti che partecipano, poi che studiano all'università e poi partecipano a quelle che sono le diciamo momenti di lotta iniziativa mapuche, e una compagna appunto Claudia, questo Pilar, una compagna Claudia che era invece tornata proprio su un territorio recuperato, e appunto una compagna sempre mapuche, la sorella di un prigioniero politico che si trova oggi rinchiuso nel carcere di Chiloé, che abita in Oscalerria. Indubbiamente sono state di una potenza incredibile, perché questo è quello che solo ci hanno detto in mezz'ora e che noi avevamo veramente bisogno che ci chiarissero, perché spesso si crea molto confusione. Credo che non ci siano vie di mezzo. Chi recupera il territorio mapuche sottraendolo agli interessi dello Stato cileno e dello Stato argentino, che si prestano a favorire i grandi imprenditori e le multinazionali, non avrà pace. Diverso è invece il percorso di chi fonda quella che è invece, diciamo, una forma diversa, diciamo così, di lottare, partendo da comunità che non sono mai state in resistenza, perché non sono mai state displassate, cioè mandate via dal proprio territorio d'origine, e diciamo che così non hanno mai dovuto affrontare la repressione che ahimè trova chi invece si sta ritrovando in questo percorso di rifondazione. Non ci sono esattamente delle differenze politiche, perché stiamo parlando della cultura di un popolo, quindi non si possono fare grandi mediazioni, no? Chi sta rifondando il popolo nazione mapuche, soprattutto in Cile, si sostiene e ha dei principi assolutamente comuni che legano anche mapuche che non si sono mai visti, che questo sia a nord o al sud del Cile. Sappiamo che il nord e il sud del Cile sono piuttosto distanti, sia i mapuche liberi che i mapuche in carcere, senza neanche bisogno che si vedano. Questo lo sentiremo poi nelle altre puntate, ma sicuramente le compagne mapuche tenevano anche molto a sottolineare il fatto che appunto loro sono venute e dopo la charla hanno aperto questo banchetto stupendo, formato di chai wai, che sono appunto questi orecchini che replicano appunto gli orecchini mapuche, così, con la simbologia mapuche, che vengono fatti in carcere dai prigionieri politici, che dopo averli messi insieme ad altri, diciamo tra virgolette, gioielli, perché noi li chiamiamo gioielli, ma insomma sono parti, diciamo, della vestimenta mapuche, che loro con gioia ci danno, quindi ci danno anche il permesso di indossarle laddove noi non ci sentiamo ridicole, ma insomma, che credo questo poi faccia sì che il discorso sull'appropriazione culturale diventi relativo, ma insomma, o comunque loro preferiscono sicuramente vendere queste cose, vendere per esempio degli adesivi piuttosto che degli scritti, insomma, perché perché i mapuche non andranno mai ad elemosinare in cambio di niente, non raccoglieranno mai soldi per il popolo mapuche, il mapuche darà sempre indietro qualcosa, quindi la compagna non riceveva assolutamente delle offerte, ma solo vendeva ciò che per esempio aveva sul suo banchetto. Credo che queste cose sono molto importanti per fare chiarezza, quando poi così noi da qua ci dobbiamo interessare di queste cose. Io adesso vi vorrei lasciare a un pochino di musica, ma esattamente in nome di ciò che ci diceva la compagna, che ci dicevano le compagne in questa prima mezz'ora di assemblea che vi ho fatto ascoltare, ahimè, vi vorrei leggere proprio la storia di questa compagna che insomma è scomparsa dall'8 di novembre. Si chiama Julia Chunil, è una donna di più di 70 anni e è, diciamo così, sparita nel nulla, ma ahimè tutte e tutte hanno un grandissimo timore. Noi ci sentiamo un minuto di MC Migliarai, giovanissima rappera mapuche che spesso canta in mapudungun, altre volte no, e ci andiamo ad ascoltare proprio Somone Wen, che significa, credo almeno, la forza delle donne. Topa mi Jerry, topa mi Claudia, mi temor solo valo, mi la Pili, y todos salen, y mi Mary salen. Mi ancestra me ha enseñado que no hay nadie, nadie, que mi luz apague y que mi lucha apague. Pero mi niña hermosa no, no la toca nadie, no me la daña nadie, no, no la violenta nadie, no. Y esta tierra mía no, no la daña nadie, no me la explota nadie y no la devasta nadie. Como quiera ante la injusticia, creada de empoderamiento, luchando desarmada de violencia y de malicia, cansada del sistema que nos reprime y no hace justicia, no, no hace justicia. Yo, esta niña se hace valer por sí misma, quien lo echa a correr se hace valer por sí misma, esta mujer es luchadora, se hace valer por sí misma. Sí, se hacen valer por sí misma. Mi voz siempre se verá alzada, somos suficientes, somos empoderadas. La vida de nuestra niña ha sido arrebatada, pero su lucha, nuestra lucha jamás será silenciada. Y nuestra voz siempre se verá alzada, somos suficientes, somos hermana empoderada. La vida de nuestra niña ha sido arrebatada, pero su lucha, nuestra lucha jamás será silenciada. Ey. Amor a mi piel, a mi cuerpo, a mis ojos, a mi pelo, a los rasgos de mi rostro, que heredado de mis abuelos. Yo aprendí a amar a los demás, pero antes de amarme a mí primero, decidí salir adelante, alcanzo mi meta y sueño. Confío en mi amor, mi libertad, mi capacidad, mi manera de pensar, lo que mi ser puede expresar, mi rebelión ante los patriarcales. Esta sociedad llena de obstáculos y estereotipos por derribar. Yo amo tristemente esta vida como el triste amor que tantos años lleva esperanzado, esperando respuesta. El familiar de una detenida desaparecida. Y el patriarcado también es femicida. Yo amo tristemente esta vida como el triste amor que tantos años lleva esperanzado, esperando respuesta. El familiar de una detenida desaparecida. Y el patriarcado también es femicida. Y ya una carrera no se nace, por más que la desigualdad se consuma, tu voz nunca va a quemar. Y mantente gritando si es necesario. ¿Para qué? Para que el mundo pueda escucharte. Y yo tan solo quiero recordarte, no es solo por ti, por mí, será por nuestra abuela, por nuestra madre, por aquellas que en vida sufren de violencia, humillaciones, y buscan la salida, y buscan la salida. Mi voz siempre se verá alzada, somos suficientes, somos empoderadas. La vida de nuestra niña han sido arrebatadas, pero su lucha, nuestra lucha jamás será silenciada. Y nuestra voz siempre se verá alzada, somos suficientes, somos hermana empoderada. La vida de nuestra niña han sido arrebatada, pero su lucha, nuestra lucha jamás será silenciada. Ey. No hay temor, solo valor y los males. De aquí todos salen, de aquí todos salen. Mi ancestra me ha enseñado que no hay nadie, nadie, que mi luz apague y que mi lucha apague. Pero mi niña hermosa no, no la toca nadie, no me la daña nadie y no la violenta nadie, no. Y esta tierra mía no, Tosta MC Miglia Rai. Allora, noi da questo mitico mezzo che è un periodico digitale, pubblica sul blog, ma è anche una radio libera e si chiama La Zarzamora, che sarebbe la Mora, La Zarzamora, medio di comunicazione libre, acrata e antispecista, vogliamo proprio da questo articolo raccontarvi la storia di questa sparizione. Stiamo parlando di una donna di più di 70 anni, Julia Ciugnil. Da poco tempo la Zarzamora è stata presente nella comunità della difensora della terra Julia Ciugnil Catricura. Ci siamo diretti all'indirizzo a Mafil, il posto dove abita, appunto, a cercare piste della Lamien e del suo cane Ciolito. Nella strada verso Huichaco abbiamo incontrato la triste realtà delle forestali e degli allevamenti, di compra e vendita di parcelle di terra e territori dissezionati e transati e venduti per denaro, che inevitabilmente ci hanno introdotto alla vita di Julia, una mujer che dedica la sua vita a difendere un territorio in costante conflitto per l'ambizione di altri. Abbiamo ricorso a alcuni dei sentieri che lei ha sempre camminato, abbiamo potuto condividere i lavori e accompagnare la sua famiglia, che ci ha raccontato parte della sua storia. Giulia Ciugnil nasce il 16 di giugno Litagnolo, il 16 luglio del 1952 sparisce l'8 novembre del 2024 ai suoi 73 anni. Ha avuto un'infanzia difficile a Huichaco e prima, insieme a tre ermani, rimane orfana di madre. Il padre decide quindi di darla in adozione e Julia rimane sotto la cura della famiglia Vasquez, che appunto la cresce a Huichaco, dove vive pessime condizioni in diversi posti. In un'intervista che fecero alla Lamien, resa pubblica dalla sua nipote Lisa Alessandra nel Prensa Libre, egli stessa dice: nessuno trattava bene i figli degli altri, non aveva scarpe, doveva dormire per terra, sotto un tavolo, a volte alle intemperie. Tutta la sua infanzia è stata vicino alla terra, le piante, gli animali, però ha dovuto lavorare già da molto giovane, lavando i panni. Ha raggiunto a 16 anni di mettere insieme i soldi per poter arrivare a Valdivia. Nella intervista, sempre nella stessa intervista, commenta che era come un uccellino che usciva dalla sua gabbia. Si sposa a 22 anni con Andalie Troncoso Garcia e a metà si separa. Un giorno, insieme al suo sposo, migrano a Temuco e si radica e mettono lì le loro radici. Anche a Temuco fa la vita della campagna e non sopportava però la distanza con la sua terra e torna a Mafil per continuare la sua vita. Nel matrimonio ha 5 figli, dai quali nascono 10 nipoti, e rimane vedova nel 2015. A Giulia sempre le ha gustato camminare, andare tra Valdivia e Mafil lavorando differenti cose. A Huichaco e tutto il suo territorio, offrendo ciò che coltivava, more, funghi, machi, insomma tutti i prodotti della sua terra, la farina tostata che lei stessa preparava, lavando i grani, poi tostandoli e molendoli. Dal 2014 la dirigente liderava la conformazione e associazione tra famiglie mapuche del territorio, con il fine di difendere le loro terre ancestrali, rimanendo così come presidente della comunità Putreghel. Dentro la sua storia ha difeso un antico cimitero mapuche che era stato usurpato dai coloni a Huichaco, mettendo insieme firme per firme, bussando porta per porta, fino a mettere insieme tutto il necessario per la sua comunità. Come leader è sempre stata opposta alla vendita delle terre e alla alla deforestazione dell'ex fondo La Frir di più di 900 ettari. È per questo che con la sua comunità nel 2015 reclamano queste terre da parte in parte per crescere animali in molto bassa scala, fare orti, mettere insieme, coltivare la frutta e soprattutto con importanza maggiore conservare il bosco nativo, visto che questo posto è uno dei pochi settori dove in Mafil dove ancora è rimasto il bosco originario, non è stato ancora sfruttato. In questo abbondante bosco nativo si possono incontrare specie di flora e fauna sacri come il laurello all'oro, la cannella e altri tipi di alberi che è inutile che vi so a dire, piante medicinali e per la pelle. E per il lato della fauna i familiari ci commentano che hanno visto guignas, il puma, rana, uccelli eccetera eccetera di questa zona specifica. Julia Cugnil è una donna lucida, forte, valiente, nonostante tutto quello che le ha toccato vivere. Alimentava e guidava e si prendeva cura di vacche, maiali, cavalli e teneva 4 cani molto ben alimentati. Familiari ci raccontano che senza nessun animale si ammalava e che quando aveva gli animali, se gli animali si ammalavano, li portava subito dal veterinario. Cristobal Troncoso Pinewal, un nipote di 24 anni, ci racconta: venivo sempre qui, restavo 2 mesi, 3 mesi, uscivamo a fare campeggio, uscivamo a prendere frutta, e spesso da soli così, e io l'aiutavo e gli aiutava mutualmente insegnandomi le cose della vita e come devi essere. Si prendeva cura delle sue piante quando nascevano e se vedeva che qualche albero si stava seccando per caso un ramo, lei lo toglieva per poterlo tenere in casa e tirava fuori un vaso e la trapiantava. Prima della sua sparizione si manteneva facendo lavori del campo, l'orto, coltivando cilantro, cipolle, prezzemolo e finocchio. Seminava e raccoglieva, aveva alberi di mele e di ciliegie. Annaffiava senza tubi, molte volte sola, con le sue 2 braccia e un'enorme tanica di acqua che lei stessa andava a prendere fuori. Usciva a cercare i suoi animali per tutto il campo, camminando chilometri ogni giorno, perché sappiamo che il popolo Mapuche non recinta gli animali perché non li ritiene propri, però poi se ne occupa e se ne preoccupa e quindi va a cercarli per riportarli a riparare e a mangiare e a crescere. Insomma, questo articolo che io io vi voglio solo leggere della sua disapparizione, perché l'articolo è molto lungo. Sebbene la disapparizione di Julia Cugnil si inquadra come uno dei primi casi applicabili in questo trattato internazionale di Escazú, di cui approfondiremo, che difende chi protegge e lotta per proteggere la natura, tristemente in Cile non è la prima donna che difende la terra che viene minacciata e ostigata, quindi minacciata fino a pericoli ancora maggiori. Esistono molte altre casi di donne difensore, come il caso di Macarena Valdés, Nicolasa Quintremán, Emilia Milén, tra queste e altri tanti esseri che proteggono quel poco che è rimasto del territorio nativo. E ci sono stati casi precedenti nei quali latifundisti, empresari e politici si vincolano con il sacariato e utilizzano strategie di amedrentamento, cioè quindi di paura, di stress, di mobbing, soborno, fino all'assassinato di chi difende la terra per arrivare ai loro progetti ambiziosi, ai quali le stesse entità statali, con storie di corruzione, vincoli con imprese estrattivisti e il potere giudiziale che in più di un'occasione incorre a proteggere a chi tiene i soldi. Non c'è una segnale di Julia da 39 giorni. In tutte queste settimane di ricerca si sono presentate differenti entità specializzate in lavori di ricerca, ma non si è incontrato nonostante questo non si è incontrato nessun segno. Con il passare dei giorni diminuisce la presenza di chi lo cerca e di chi costantemente si preoccupa la famiglia Chunil, che cerca di rendere più agile e organizzare tutto per continuare a fare fronte a questo difficile momento. Abbiamo parlato con Pablo San Martín Chunil, il figlio maggiore di Julia, che fa il seguente appello: l'unico che vogliamo è che ci aiutino a trovarla, perché non vogliamo che mia madre sia un'altra persona desaparecida, ma la vogliamo trovare. Grazie per averci appoggiato, per essere venuti ad appoggiarci. Passano i giorni e non sappiamo niente di lei. E in ciò che è possibile facciamo appello a che vengano persone a cercare nostra madre. E insomma, poi dà chiaramente tutta una serie di segnalazioni, cioè di link per appunto chi vuole offrire la propria opera. Da qui per noi è assolutamente complicato, però insomma ci vengono i brividi quando sentiamo fare il nome di Emilia Milén e di Macarena Valdés. Sono due dei nomi che conoscete meglio, abbiamo percorso le loro storie in lungo e largo. Emilia Milén, donna trans mapuche, uccisa per difendere la spiaggia del lago, uccisa con un colpo in testa, secco, mentre appunto questo corteo di famiglie mapuche solidali si recava a riprendersi una spiaggia pubblica che qualcuno voleva invece far diventare privata. Macarena Valdés, che ricordo con ancora più emozione, perché a parlare di lei spesso era il suo compagno, anche lui sparito, vogliamo dirlo, in situazione veramente strana, ma insomma di cui ancora non si è aperto un caso, nessuno ha detto niente, ma indubbiamente anche lui sparito in una situazione quantomeno curiosa, o che lascia quantomeno perplesse. Macarena e il suo compagno avevano lasciato la città, l'abbiamo raccontato spesso, avevano lasciato la città, erano dei mapuche che avevano abbandonato il loro essere mapuche ed erano diventati dei cittadini cileni, universitari, addirittura ingegneri, ma insomma hanno preferito tornare sul loro territorio, e proprio per la difesa del loro territorio Macarena è stata impiccata davanti a suo figlio di 11 mesi dentro la propria casa con i piedi che toccavano per terra. Quindi, detto questo, io direi che, bando alle ciance, oggi direi che abbiamo messo dei punti fermi su chi ci vuole un po' invece riempire le orecchie di tante altre chiacchiere riguardo il popolo mapuche. Noi credo che sicuramente non il prossimo giovedì lasciamo spazio ai protagonisti di questo mese senza volerci si mischiare, ecco, non so bene come dire. Non ci saremo comunque, quindi io direi che potremmo provare addirittura il 2 a tornare a trasmettere. Verrete avvisate, beh, sarebbe figo risvegliarvi dal vostro anno con le schiena del soul, no? Vabbè, non esiste più, però insomma è ancora nel mio cuore. Allora io direi che andiamo a chiudere, perché adesso vi aspetta Cosa succede in città. Facciamo le scarpe al giubileo magari, però insomma facciamogli una bella trasmissione, facciamogli fischiare le orecchie quantomeno. Come vi ho detto, dopo di loro ci sarà Tabula Rasa, e quindi per quanto mi riguarda tra breve la trasmissione sul blog della radio. Per oggi è tutto, come sempre. con un abbraccio particolare a chi non può godere della propria libertà.